facilmente strade bussola, né rimorsi né certezze né realtà, occhi che ti osservano in una città o tutto forse niente. Quello che si cerca è come l'ultima di una lunga serie di poesie. Se tu sei ancora qua a ripetere a te stesso la morale di una lunga favola e raccontare al proprio io quel che deve essere, o è come raccontare a Dio quel che può succedere, e come stare immobili ad aspettare il senso di un qualcosa che si è perso, di un qualcosa che ormai è spento. E sono schiavo del tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. E nessuno ha più senso, senso, senso, senso, senso. E sono schiavo del tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. E nessuno ha più senso, senso, senso, senso, senso. Schiavi di se stessi e di se stessi il male, vizi capitali e cacca abitati male, uomini che piango al loro capezzale, schiavi del mio tempo che li ha fatti stare bene. E raccontare al proprio io quel che deve essere, o è come raccontare a Dio quel che può succedere, o è come stare immobili ad aspettare il senso di un qualcosa che si è perso, di un qualcosa che ormai è spento. E sono schiavo del tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. E nessun ha più senso, senso, senso, senso, senso. E sono schiavo del tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. E nessun ha più senso, senso, senso, senso, senso.